La seconda condizione è di sentirsi membro della vita complessiva. Adempierla ha una portata molto vasta e ognuno può adempierla soltanto a modo suo. Se sono un educatore e il mio allievo non fa quel che desidero, non devo volgere il mio risentimento contro l'allievo, ma contro me stesso. Devo sentirmi tanto unito con l'allievo da chiedermi: ciò che difetta all'allievo non è forse conseguenza della mia opera? Invece di risentirmi con lui, rifletterò piuttosto come io stesso mi debba regolare perché in avvenire l'allievo possa corrispondere meglio alle mie richieste. Da un simile atteggiamento, a poco si trasforma l'intero modo di pensare del discepolo. Questo vale tanto rispetto agli eventi piccoli quanto ai grandi. Con tale disposizione considero per esempio un malfattore diversamente da prima. Trattengo i miei giudizi e mi dico: io sono soltanto un uomo come lui. Forse solo l'educazione che le circostanze mi hanno permesso di avere mi ha salvato da un destino pari al suo. Allora arrivo anche al pensiero che questo mio fratello sarebbe divenuto diverso se i maestri che hanno diretto le loro cure a me le avessero rivolte a lui. Rifletterò che mi è stato concesso qualcosa che a lui è stato sottratto e che vado appunto debitore della mia virtù alla circostanza che lui ne è stato privato. Non sarà allora lontana da me l'idea di essere un membro dell'intera umanità e perciò corresponsabile di tutto quello che succede. Qui è inutile dire che tale pensiero non deve subito tradursi in azioni esteriori, va piuttosto coltivato nel silenzio dell'anima. Solo allora, a poco, si esprimerà nella nostra condotta esteriore. In tali cose ognuno può iniziare a trasformare se stesso. In ordine a tali pensieri, a nulla giova cercare di imporre degli obblighi all'umanità in generale. È facile dare un giudizio su come gli uomini dovrebbero essere. Il discepolo dell'occultismo lavora però nel profondo, non alla superficie. Sarebbe perciò un errore voler stabilire un nesso fra questa condizione dell'occultista e qualsiasi altro obbligo esteriore, ad esempio politico, col quale la disciplina occulta nulla ha a che fare. Gli agitatori politici di solito sanno ciò che vogliono chiedere agli altri, parlano poco degli obblighi che devono imporre a se stessi. Ciò è direttamente connesso con la terza condizione della disciplina occulta. Il discepolo deve potersi elevare all'idea che i suoi pensieri e i suoi sentimenti hanno per il mondo altrettanta importanza quanto le sue azioni. Deve riconoscere che è altrettanto nocivo odiare il prossimo quanto colpirlo. Allora arriverà anche a comprendere che quando lavora al suo perfezionamento compie un'opera utile non soltanto per se stesso, ma anche per il mondo. Dalla purezza dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri, il mondo trae altrettanto vantaggio quanto dalla sua buona condotta. Finché non può credere all'importanza universale della sua vita interiore, non è atto ad essere discepolo dell'occultismo. La giusta convinzione dell'importanza della sua vita interiore e della sua anima si manifesta in lui soltanto quando si adopera alla loro elaborazione, attribuendo loro perlomeno altrettanta realtà quanto alle cose esteriori. Deve ammettere che il suo sentimento ha un effetto come lo ha un'azione della sua mano. Con questo è già espressa la quarta condizione, la condizione che la vera entità dell'uomo non risieda nel suo essere esteriore, ma in quello interiore. Chi considera se stesso soltanto come un prodotto del mondo esterno, come un risultato del mondo fisico, a nulla può giungere nella disciplina occulta. Il sentimento della propria essenza animico-spirituale è a base di tale disciplina. Chi arriva a questo sentimento distingue fra il dovere interiore e il risultato esteriore. Impara a conoscere che l'uno non può essere direttamente commisurato all'altro. Il discepolo dell'occultismo deve trovare la giusta via di mezzo fra ciò che le condizioni esterne gli impongono e la condotta che ritiene di dover seguire. Non deve imporre alle persone che lo circondano ciò che non sono atte a comprendere, ma anche deve essere del tutto libero dal desiderio di fare soltanto ciò che può essere apprezzato da chi lo attorna. deve cercare il riconoscimento delle sue verità solo nella voce sincera della sua anima che lotta per la conoscenza. Da ciò che lo circonda deve però imparare quanto più gli è possibile, per scoprire quel che egli può giovare e riuscirgli inutile. In tal modo svilupperà in se stesso ciò che la scienza occulta chiama la bilancia spirituale. Su uno dei piatti della bilancia vi è un cuore aperto alle necessità del mondo, sull'altro fermezza interiore e incrollabile perseveranza. Queste qualità già richiamano la quinta condizione, la costanza nell'esecuzione di una decisione presa. Nulla deve indurre il discepolo ad abbandonare una decisione presa, tranne la constatazione di essere caduto in errore. Ogni decisione è una forza, e anche se la forza non porta ad un risultato immediato nella direzione desiderata, non di meno agisce a suo modo. Il risultato è decisivo solo quando si compia un'azione per passione, ma tutte le azioni compiute per passione non hanno valore per il mondo superiore. Qui decide soltanto l'amore per un'azione. In tale amore deve manifestarsi tutto ciò che spinge il discepolo ad un'azione. Allora non si stancherà di tornare sempre a trasformare le sue decisioni in azione, malgrado i numerosi insuccessi che potrà avere sperimentati. Arriverà così a non aspettare gli effetti esteriori delle sue azioni, ma a trovare soddisfazione nelle azioni stesse. Imparerà a sacrificare al mondo le sue azioni, il suo intero essere, senza curarsi di come il mondo accetterà il suo sacrificio. Chi vuol diventare discepolo dell'occultismo deve dichiararsi pronto a quest'opera di sacrificio. Una sesta condizione è lo sviluppo del sentimento di riconoscenza per tutto ciò che si riceve. Bisogna sapere che la propria esistenza è un dono dall'intero universo. Quanto mai occorre perché ognuno di noi possa ricevere e conservare la sua esistenza? Di quanto andiamo debitori alla natura e agli altri? A tali pensieri devono essere disposti coloro che vogliono la disciplina occulta. Chi non può abbandonarvisi non è capace di sviluppare l'amore universale necessario per arrivare alla conoscenza superiore. Qualcosa che non amo non mi si può manifestare, e ogni manifestazione deve colmarmi di gratitudine, perché grazie ad essa io mi arricchisco.